Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Prendete un migliaio di puzzle diversi tra loro, di ogni forma e dimensione. Mescolate tutte insieme le tessere in un grosso calderone e poi tiratene fuori, diciamo, un paio di sacchi. Bene, il lavoro del nostro ospite è simile a quello di colui, un po' masochistico forse apparentemente, insomma, di colui che a partire da questo campione voleste tentare di ricostruire le immagini contenute nei puzzle. I puzzle non sono altro che in realtà i microorganismi del microbiota, cioè tutti quei batteri che per esempio popolano il corpo umano e che sono vitali per noi, mentre le singole tessere sono i frammenti di DNA che questi esserini, diciamo, lasciano nella saliva per esempio e in altre anche secrezioni. Come abbiamo visto ieri, questa complessa procedura di ricostruzione va sotto il nome di metagenomica. È una disciplina che mixa genetica e scienze computazionali, che ha aperto una strada nuova nello studio delle popolazioni batteriche umane e, come vedremo stasera, anche cittadine. Ma diamo il bentornato, direi, a Nicola Segata, capo del laboratorio di metagenomica computazionale del Centro di Biologia Integrata dell'Università di Trento. Buonasera Segata, bentornato. Buonasera a tutti, grazie. Allora, che cosa sappiamo delle comunità batteriche che popolano le città? Proprio le città, nel senso la metropolitana, i marciapiedi, non so come dire. Sì, è abbastanza curioso che sappiamo poco, perché questa tecnica che lei ha descritto, la metagenomica, è stata applicata molto a comprendere quali sono gli organismi presenti all'interno del nostro corpo, ma anche gli organismi che per esempio costituiscono l'ecosistema marino o del suolo, ma se consideriamo che passiamo una grande frazione del nostro tempo all'interno di ambienti chiusi o comunque cittadini, è abbastanza sorprendente che sappiamo ancora pochissimo di quali sono i microrganismi presenti nell'ambiente nel quale appunto trascorriamo gran parte del tempo. C'è un caso, un tentativo di studio che è stato fatto a New York? Sì, assolutamente, c'è una collaborazione che abbiamo in atto con i ricercatori di New York che hanno per la prima volta analizzato quali sono gli organismi, quali sono questi batteri, virus, funghi che colonizzano le superfici delle metropolitane, in particolare appunto la metropolitana di New York. Si è andato a analizzare varie superfici, le superfici che tocchiamo con le nostre mani, ma anche le superfici delle rotaie, le superfici delle macchine automatiche per certo. Spostare i biglietti. E si è quindi cercato di mappare quali organismi ci sono. È stato sorprendente perché in alcuni casi si sono trovati alcuni microorganismi che sembravano vicini parenti di organismi che sono patogeni per l'uomo. In realtà si è visto che questi non erano patogeni, sono abitanti normali delle nostre città. Sì. E non sono pericolose, almeno in persone sane e senza con un sistema immunitario in buono stato. Insomma, però stiamo esplorando questo mondo rimasto abbastanza inesplorato delle interazioni fra noi e tutti questi microorganismi che ci circondano. Senta, quali possono essere le applicazioni di questo tipo di studi? Che cosa si immagina di fare? Ma dobbiamo pensare che la nostra evoluzione è stata svolta a gran parte in ambienti naturali, no? Quindi adesso siamo in ambienti più artificiali in cui gli organismi presenti sono diversi, quindi è importante capire quali sono questi organismi per capire quale può essere l'interazione con noi. Per esempio, all'interno di una casa uno potrebbe pensare di sviluppare dei filtri speciali che lasciano entrare dall'esterno solo alcuni tipi di batteri e non altri. Oppure che sviluppiamo dei metodi per capire quali superfici costituiscono un ambiente più ideale per alcuni batteri piuttosto che altri. Per esempio potremmo scegliere dei materiali, stabilire delle regole per dei materiali tagliando fuori quelli che creano più problemi. Per esempio sì, ma anche considerando di fare il parallelo con gli antibiotici, sappiamo molto bene che nel nostro corpo l'antibiotico è un problema per tutti quegli organismi che non sono il patogeno stesso. Anche un eccessivo igiene all'interno di una casa potrebbe portare alla rimozione di alcuni batteri che sono in realtà utili per la nostra interazione e per il nostro vivere quotidiano. Ecco, dunque, tra tutte queste relazioni possibili, l'individuo con il proprio microbioma, l'individuo nei confronti della popolazione dei microorganismi della città, ecco, quali altre relazioni, insomma, si stanno studiando, quali altre ricerche si stanno facendo di questo tipo? Noi siamo molto interessati a capire quale sia la sorgente dei batteri che poi colonizzano il nostro corpo. Appunto l'ambiente cittadino, l'ambiente di casa è uno di questi. E quindi è importante capire quali batteri ci siano per capire quali possiamo acquisire. Una cosa molto importante è che noi acquisiamo batteri anche al momento della nascita direttamente dalla madre, per esempio. Quindi stiamo studiando Come avviene questo come avviene la trasferimento? colonizzazione nel neonato e come i batteri materni si trasferiscano al neonato. Si possono trasferire, per esempio, per il latte materno è pieno, Certo. è popolato da bifidobatteri che troviamo anche nell'intestino umano, ma anche la stessa pelle della madre contiene dei batteri che troviamo colonizzanti nell'intestino del bambino. Insomma, c'è tutta una frontiera da scoprire e la cosa sorprendente è che sono degli studi di informatica oggi, che sono l'arma più affilata che c'è. Assolutamente, si tratta di processare in modo rapido miliardi di piccoli frammenti di DNA, piccole sequenze di 4 lettere moltiplicate per miliardi e miliardi di volte, e dobbiamo riuscire a risolvere questo puzzle, come diceva Appunto. lei, in modo efficiente e il più accurato possibile. Va bene, grazie. Allora ancora Nicola Segata, buon lavoro. Grazie mille a voi, buona serata. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento. A domani.